ed i ricordi hanno perso il colore, un temporale che non fa rumore, e questa notte nessuno odore. Voce di chi non sa il tuo nome, è l'universo che crolla addosso ormai. Tutto è veloce come un brivido muore, anche se nessun rimpianto mai. Il tempo fermerà. Forma di Gesù in croce nella terra arida, perché scivola via con il sangue che piove nello sguardo di chi non dimentica.